Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Qualcuno dirà che capita solo ai cretini, però mi è capitato di farmi un taglietto con lo sgancio del tavolinetto del sedile di fronte a me. Niente di grave, un tagliettino, ero sovrappensiero, ho fatto un gesto nervoso, insomma ho fatto un taglietto, un dito, usciva il sangue. Non che io sia una persona che fa storie così, però mi dava fastidio, soprattutto non sapevo che fare, non avevo nulla a disposizione, non ero attrezzato. Beh, il passeggero accanto a me, in men che non si dica, tiro fuori dalla sua cartellina quello che serviva per la medicazione. E il mio dito tornò come nuovo. E dietro questo gesto apparentemente sorprendente, ma quanto mai comune e banale, di dare un cerotto e un disinfettante a una persona, si nascondeva una storia che non potevo fare a meno di farmi raccontare. Ho iniziato il mio percorso lavorativo a 22 anni, anche perché negli anni 70 fortunatamente non erano quelli di oggi, nel senso c'era la possibilità anche di una scelta, no? Nel senso che il mio babbo era in polizia, mi ricordo mi era stato proposto di entrare appena diplomato all'Accademia della Polizia e il mio babbo mi disse: guarda, non ne fa niente perché le stellette sono tante pesanti, a quei tempi la polizia ancora era militarizzata. E mi si creò l'opportunità di entrare in banca, quindi diciamo a 22 anni presi la mia valigetta ed entrai, fui assunto a Roma, a quei tempi al glorioso Monte dei Paschi. Dopodiché una permanenza a Roma di circa 4 anni, chiesi il trasferimento per avvicinarmi un po' a casa perché ero originario della provincia di Siena e ho trascorso un'altra decina, 12 anni in Toscana. Dopodiché feci la scelta di dare gli esami da funzionario, fortunatamente riuscì a passare al primo tentativo e da lì iniziò poi un iter di pellegrinaggi. Ma quindi che... una carriera di bancario, una regolare, fortunata, tranquilla carriera di bancario. Sì. Grazie a Dio senza pagare cambiali a nessuno, nel senso tutto da me, senza sponsorizzazioni. Era più facile in quegli anni, onor del vero va detto. Sì, a quei tempi sì, poi il percorso era, adesso è cambiato tutto, adesso diciamo le promozioni, anche gli inquadramenti che vengono fatti vengono dati per lo più diciamo in modo automatico. Ai tempi miei dovevamo affrontare una serie di esami, erano 4 esami che erano abbastanza tosti, per cui lavorare, a quei tempi avevo 37-38 anni, lavorare, rifarsi da capo con gli studi è stata dura, ma insomma fu un bel risultato, una bella soddisfazione riuscire ad essere promosso. Il tipo di lavoro mi è sempre piaciuto perché il contatto umano, anche se in alcuni casi può essere pesante, ma è un lavoro che c'ha anche i suoi aspetti diciamo non sempre piacevoli, perché ci si trova a contatto con persone che molte volte portano anche delle difficoltà. In quel caso l'interesse dell'istituto bancario deve anche un po' prevalere. È superiore, sì. Ma a quei tempi tutto sommato ancora avevamo, non parlo delle guerre puniche, ma insomma una ventina di anni fa ancora c'era una parte, diciamo, svolgevamo ancora una parte sociale. Avevamo anche un ruolo sociale. Era un po' il residuo delle vecchie banche del primo dopoguerra che nascevano come, diciamo, motivo per aiutare le persone a farsi una casa, finanziargli la prima casa, il lavoro e via dicendo. C'era poi anche un rapporto di conoscenza basato sul pregresso. È chiaro, il rischio andava sempre presidiato, questo è ovviamente faceva parte dell'istituzione per cui lavoravamo. Ma qual era la classica situazione, diciamo, difficile, penosa che si trovava a dover affrontare? In alcuni casi il dover dir di no a persone che fondamentalmente sul piano morale se lo meritavano, però sul piano economico avevano poi delle situazioni non facilmente gestibili, o quantomeno proprio non gestibili. I consigli, diciamo, la funzione sociale era anche quella di cercare di fare un po' tipo il confessore, no? Nel senso che quello che veniva detto in quelle stanze rimaneva poi tra di noi. E il cercare, io riporto un esempio di un signore, un vecchio benestante di una volta, che aveva proprietà immobiliari, poderi, terreni, e come molti signori di quei tempi commercialmente non erano abituati, avevano il fattore, ti sbrigava tutto loro vivevano di rendita e tutti gli anni era in difficoltà, diciamo, vivevano. Il margine del fattore rappresentava l'unico rischio, il margine innegabile. Che si faceva al fattore a scapito del proprietario, però diciamo era considerato già dal tempo del Marchese del Grillo, si sapeva che il tuo amministratore ci lucrava sopra, faceva parte, diciamo, delle regole. E questo signore, in cambio, non aveva i problemi, quindi certo, ogni cosa al suo prezzo, no? Al suo scotto. Però tutti gli anni questo vendeva un podere o un pezzetto di terreno, era sempre indebitato. Anche parlandosi, ma perché, dico, questo era molto più grande di me, ma perché non fa una sana operazione di vendere non una ma 4, 5, 6 unità immobiliari che ne ha, ti costano solamente, questo, diciamo, questa fu una funzione sociale, non lo poteva aiutare in altri modi perché ai fini degli affidamenti non aveva i presupposti per essere supportato, e diciamo mi dette retta fortunatamente, e in effetti risolse un po', perché fece un blocco unico, risparmiò un sacco di tasse, si alleggerì delle spese del fattore. Quindi cosa lei tocca in questo momento? Mi viene in mente proprio la mia biografia, sembra assurdo, ma io ricordo anch'io che aveva una situazione simile da bambino, che avevano queste terre in un momento difficile, c'era il passaggio anche di un'agricoltura piuttosto arcaica, un'agricoltura meccanizzata. L'idea era, ma ogni volta si vendeva un pezzetto, si vendeva un campo, un pezzetto di podere, sembrava che fosse possibile, poi alla fine sono ritrovati senza niente, perché alla fine hanno fatto sempre, sono stati costretti a svendere. Quindi era, diciamo, nell'Italia che si industrializzava e si emancipava, era tipico che aveva la terra, se la vendeva a pezzetti, come, diciamo, uno attinge al salvadanaio, capito? E non risolveva mai il problema, perché rimaneva sempre indebitato. Sì, perché poi gli interessi crescono dei debiti, non è che... E quindi, diciamo, io poi, dopo, vabbè, anche di mando in mano che... sale un po' la scala gerarchica ai fini all'interno dell'istituto, le mansioni anche erano un po' più diverse, nel senso c'era un po' meno rapporto diretto con il pubblico a quei tempi, soprattutto uno diventava gestore di risorse, il rischio con il tempo era sempre meno in autonomia, nel senso che gli ultimi anni erano le macchine, i terminali che decidevano se concedere o meno gli affidamenti. Quindi, diciamo, il rapporto diretto, cioè non potevi mettere più niente di tuo, nel senso che la funzione sociale era un po' svanita. The summer shines into a paperback, into a paperback, the summer shines. Thank you. the summer shines. We take a bus of neon light. In neon light, we spend the night. Waiting for blackbirds on the grass. Facing the sky, playing on the grass. You said to me, we're gonna die. We're gonna leave before we die. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. I campioni dello sport, le loro storie e gli autori che le hanno raccontate. Sono Dario Ricci e a luglio vi aspetto ogni domenica alle 16.30 e in podcast a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport, per leggere insieme i grandi libri della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Lei ha lasciato questo lavoro, continua a farlo? No, io una volta chiuso del tutto ho avuto offerte, come, ma non perché ero un fenomeno, come tutti coloro che andavano in pensione dalle varie finanziarie, da qualche altro istituto, ma sinceramente ho detto io i miei 40 anni li ho dati, basta, non... mi sono dedicato dopo un annetto di riflessione, ma senza sofferenze, sinceramente l'ultima settimana lavorativa mi sono posto il problema, adesso cosa faccio? Ma vediamo un po'. Ma non si è posto allora anche il problema proprio del supporto economico? Penso che un lavoro comunque le permetteva di fare una vita, sì, serena, tranquilla. Sicuramente, no, ma che... Quanti anni aveva quando ha fatto questa scelta? Ne avevo 60, grosso modo. Diciamo, è una scelta importante, perché ancora, diciamo, altri 5, 6 anni, 7 anni poteva magari lavorare, sì, e consolidarsi, però, la vita futura, ha cambiato, sì, completamente, mi pare. Io, diciamo, sono andato in pensione con il massimo, nel senso che più di così non prendeva, quindi sono riuscito, esatto, a glissare la Fornero, ma non con alchimie, perché essendo nato nel 52 eravamo a cavallo per poter usufruire della scelta della pensione con 40 anni di contributi, e quindi non ho... Quindi se va già 40 anni di contributi, che giustamente... 39, sì, poi avevo un anno e mezzo di militare da conteggiare. Comunque è riuscito a fare 40 anni. Sì, esatto. E quindi sinceramente non mi lamento, perché sinceramente ho pagato i miei contributi, ma sinceramente è una pensione ad oggi che mi permette di vivere tranquillamente, non senza lodi e senza infami, ma una vita serena. Quindi può dedicarsi a qualcosa che esatto, la paghi totalmente, non sia soltanto lavoro. Esatto. E che scelta fa? Per prima cosa mi sono preso un cane. Poteva farlo anche prima, penso, no? Ma vede, io lavoravo sempre fuori, quindi partivo la mattina, addirittura gli ultimi anni mi permetteva un discorso di rientro giornaliero a casa, e quindi, diciamo, però essendo sempre fuori, mia moglie lavorava, quindi prendere un animalino e lasciarlo tutto il giorno solo sinceramente non mi andava, l'avrei sacrificato sicuramente, e quindi una volta libero mi sono... Quindi lo spartiacque è stato l'acquisto del cane? Esatto, l'acquisto del cane. Dopodiché, tranquillo, ho gestito e sto gestendo tuttora questa splendida bestiolina alla quale sono attaccato, a parte della famiglia a tutti gli effetti. Quindi, diciamo, dedicarsi a un cane è stata la scelta alternativa. Io pensavo del... Esatto. No, assolutamente. Non ho avuto... Fin dalla prima mattina ho dormito fino alle 9:30, quindi non ho avuto traumi post lavoro. Non fa come Fantozzi, che il primo giorno corre, va a timbrare il cartellino e ti dicono: ma che fai qua? Ormai sei in pensione. Anzi, guarda, io in banca ci sono stato credo 3-4 volte, ma non perché sono stato male, però ricordo i colleghi che venivano lì i classici personaggi tipo Fantozzi, come dicevo. A salutare tutti, come stai, esatto. Che bello, vediamoci. Dai, elemosinare, andiamo a prendere un caffè, ti ricordo. No, non mi faccia pensare a una cosa che mi viene la tristezza solo a pensare. Un'angoscia. Che tutti ci hanno fretta, devono fare le loro cose, cioè che palle, ma che vuole, che vada a fare una passeggiata. E picciavano, no, poverelli, per carità, nessuno gliel'ha mai fatto capire per un fatto di educazione, di rispetto. Però impicciavano anche. Non mi sono proprio. Lo sai, quel legame indissolubile con il luogo di lavoro che a me è qualcosa di terribile. È una schiavitù indotta che non percepiamo. Ci manca come ci manca un amore perduto, queste cose qua. Certo. E soprattutto abbiamo l'impressione, non so se corrisponde al suo lavoro o quello che l'hai conosciuto, che sia qualcosa che fa parte di noi, che noi siamo imprenditori. Tipo di azienda per cui lavoriamo. Vabbè, accade anche nei giornali, quando un giornale lasci un giornale ti sembra che era tuo, quando ti rendi conto in realtà no, eri uno stipendiato, non era tuo, era uno dei tanti, una volta chiuso ne arriva un altro. No, io l'attaccamento, per carità di Dio, all'istituto sempre ho avuto, in alcuni casi anch'io me lo sono sentito quasi mio, fino al punto, mi diceva mia moglie, che io nei sogni parlo. E ogni tanto mi svegliavo dicendo: guarda, fatti riportare il blocchetto degli assegni, tagliagli la carta di credito. Cioè, sua moglie sentì cornificata dalla banda, dalla banca. Però una volta chiusa, è chiusa, ma senza rimpianti, ribadisco, io sono stato ore 10, sono stato bene, però è una fase della vita che è accantonata. Adesso ci sono altre cose da fare. E a proposito di queste cose, dopo un annetto di ozio totale, ho fatto per scommessa, per così, un corso, posso fare il nome tanto alla misericordia, sì. Dove sono adesso, è un corso di primo livello per quanto concerne il soccorso. La misericordia è un'istituzione direi importante, conosciuta e storica anche, no? Figuriamoci. E qui a Viareggio, quindi lei è diventato diciamo un autista di ambulanza. Proprio volontario. Un autista no, perché diciamo ho optato più per stare. Quindi qual è il suo posto? Sedere nell'ambulanza assieme all'autista e accompagnare l'autista o dietro, in base. Noi generalmente partiamo in tre. Il team è composto da tre persone, autista e due volontari. Ma un'operazione, diciamo, è un'attività di contributo sociale, utilità sociale. Sicuramente sì, far del bene, guardi, io sinceramente non avevo mai. Quindi una scelta altruistica totale. Sì, sinceramente sì, è stata nata come una curiosità, per vedere, dico, visto, si sa mai, il primo corso, il primo livello ti insegna un po' le nozioni di base, cosa fare su una ferita, cosa fare in caso di arresto cardiaco, cose che poi tutto sommato te le puoi ritrovare anche nell'ambito di una vita privata. Fatto il primo livello, che è quello che poi non dà il patentino per salire sulle ambulanze, ma dà solo una specie di patentino per portare disabili in ospedale, accompagnare coloro che devono fare una prima assistenza, diciamo, con persone fragili. Esatto, poi fatto il primo corso, una ciliegia tira all'altra, perché non fai anche il secondo, eravamo un bel team, e ho partecipato anche al corso di secondo livello. E nel secondo cosa si faceva, cosa insegnava? Diciamo, è molto più approfondito rispetto al secondo, al primo. Il primo è più nozionistico, il secondo è anche pratico, ci sono delle esercitazioni, c'è un tirocinio che viene fatto sulle ambulanze, quindi diciamo è un corso abbastanza completo. Diciamo che il discrimine è salvare la vita di un essere umano. Esatto. Cioè una bella responsabilità. Sì, ci sono anche gli effetti e poi delle responsabilità che si possono ripercuotere anche su un fatto penale, perché in linea teorica, uno sbaglia, pur non essendo pagati, però è colpa sua. Capisce? È lui che ha scelto di andarci, no, ma trovo sia corretto, se no. Certo, però non deresponsabilizza il fatto che è un'azione volontaria, se no i volontari non avrebbero senso, sarebbe chiunque. Esatto. Poi da cosa nasce cosa? Il fatto del percorso lavorativo che avevo fatto. La misericordia di Viareggio purtroppo ha avuto delle vicissitudini economiche per una gestione precedente disastrosa. E qui il bancario sarebbe stato utile più e che l'infermiera. Il bancario è stato utile, per cui mi sono sentito strattonato inizialmente a darci una mano al centro di ascolto. Quindi il primo soccorso che ha somministrato lei è stato l'aspetto finanziario dell'organizzazione. Dopo mi hanno tirato dentro tutti anche per certi aspetti, poi vieni con noi nel consiglio, poi vieni con noi, il magistrato è composto da 6 persone più il presidente, però diciamo lo zoccolo duro per quel che mi riguarda rimane sempre l'ambulanza. Poi il consiglio e il magistrato, ci sono decisioni importanti da prendere, ma è tutta tecnica. La pratica invece, lo stare sul campo, è quello che a me piace più, che mi coinvolge in modo diciamo importante, anche se nonostante l'età, perché mi confronto quasi sempre con ragazzi molto più giovani, siamo 2 o 3 vecchietti che facciamo questo. Ma vecchietti, cioè è più giovane di me, vada piano a sentirli. Beh, insomma, comunque, diciamo, però è una cosa che, o più o meno la mia stessa età, capito? Mi ha preso, e nonostante il Covid ho continuato a fare turni e servizi. Molti purtroppo che avevano persone anziane con sé, chi aveva figli piccoli, chi per una tipologia di lavoro non lo poteva fare, abbiamo un po' sofferto in questo periodo da alcune carenze di personale, perché ripeto, tutte rispettabili, ognuna ha una propria situazione familiare e lavorativa, quindi sono state un po' di defianze. Ma io, nonostante il Covid, sinceramente mi sono sentito di continuare a dare una mano. Sigo cruzando rios, andando selvas, amando il sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà fra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Raccontiamo un po' qualche episodio, perché mi sembra singolare, è un'esperienza che non è che capita a tutti. Comunque, no, bancario, a un certo punto, con un corso, si trova a stare a bordo di un'ambulanza che viene chiamata e va in delle situazioni di graduale rischio e pericolo. Qual è stato il primo impatto, diciamo, forte che ha avuto? Ma guardi, dopo la seconda o terza uscita ho beccato subito il morto. Dov'era? Cosa era successo? Purtroppo era un signore affetto da tumore, per cui quando noi siamo arrivati a praticamente... Era a casa, e quindi la funzione sociale, una volta provato, perché poi la prassi dice di provare anche a rianimare il tutto, una volta fatto tutto non c'è. Voi avete applicato il protocollo comunque? Com'è? Esatto, poi è arrivata l'automedica, perché noi ovviamente non essendo medici, in base al codice di chiamata del 118, al momento in cui è attivato un codice rosso, che è il più grave, siamo assistiti anche da un medico e un infermiere che arrivano con l'automedica. Sì. Quindi, diciamo, il vostro è il primo impatto di emergenza, esatto, poi arriva il personale, esatto, giustamente, esatto, specialistico. Esatto, certo, certo. Poi in casi, codici, diciamo, i codici verdi e i codici gialli, che sono un po' meno gravi, in genere sono demandati alla nostra gestione. Nostra gestione non autonoma. Ma si era mai trovato una situazione del genere per motivi familiari, di esperienza sua di vita? Questo è stato proprio il primo impatto? No, per, diciamo, familiari diretti no. Viva Dio. E quindi è stato un impatto forte, diciamo, nella sua vita. Forte. Però guardi, io ho sempre sostenuto, pensavo di essere emotivamente, insomma, abbastanza debole, ritenevo di non essere in grado di affrontare certe situazioni, invece evidentemente è stata talmente la voglia e la volontà di farlo che ci si fortifica. Ma guardi, io ho un'impressione, se uno fa certe scelte vuole mettersi alla prova. Sì, secondo me non c'è mai un'età troppo avanzata per mettersi alla prova, anzi, sintomo di vitalità. E a un certo punto, dopo anni di vita da bancario, che nello stereotipo, a meno che non subisca una rapina, è la vita più tranquilla, certo. Mezzo almeno. Le è mai capitato di essere rapinato? No, mi sembra. Sì, un paio di volte, ma insomma. Faceva paura. Diciamo, tutte fatte da professionisti. Per quindi il professionista sta tranquillo. Il professionista siamo tranquilli. Mette paura. E non me l'ha detto, scusa, lo considero così poco importante. No, sono, diciamo, state gestite bene. E come si riconosce il professionista? Ah beh, il professionista mette calma, incute calma, non dice state tranquilli, non succede assolutamente niente, non gli trema la mano, ha una voce. C'hanno le armi in mano tutte e due le volte? Sì, sicuramente sì. Armi cariche, perché oltretutto in una, nella seconda non lo so, ma in una, al momento in cui uscirono per farsi largo, hanno sparato in aria, per cui erano cariche e bucarono una grondaia di un tetto, per cui sono certo che era carica. Però ecco, ma in quel caso cosa fate voi? Obbedite, non è che vi importa, sicuramente, tanto assicurazione. Sì, sicuramente sì, cioè solo nei film si vede quello che pigia il pulsante sotto la scrivania. No, assolutamente. Una volta addirittura i titolari erano forniti, ma parlo di 50 anni fa, erano forniti di pistole e potevano a discrezione, in teoria, reagire. Ma io manco morto. Le indicazioni sono date tutto, non fate assolutamente, anche perché oggi beccano ben poco nel caso di rapine. Perché i soldi sono tutti nel cavò chiuso, perché non c'avete la chiave. Esatto, ma poi oggi le giacenze sono in banca. Ma c'è anche scritto nella banca, dice, nessuno ha le chiavi del cavò. Esatto. E quindi che le fanno a fare le rapine? Quello che c'è nel cassetto? Oggi le rapine in banca le fanno i disperati, sì. I drogati, coloro che hanno bisogno di assicurarsi. Perché alla fine ci sono quattro soldi che non vale la pena, penso. Non vale assolutamente, considerando il rischio, non vale assolutamente la pena. Infatti sono molto calate con questi mezzi a tempo, temporizzati, quindi devono passare X minuti prima che si possano aprire i bancomat, prima che si possa aprire deve dare 20 minuti di tempo, per cui sull'immediato uno veramente prende i soldi per una dose di stupefacenti, credo poco di più, per cui fortunatamente sono molto in calo. Però ecco, tornando un passo ho aperto una parentesi per far capire che la vita di bancario ha comunque dei suoi imprevisti. Poi sono arrivato per la prima volta davanti a un cadavere di una persona a cui lui doveva comunque provvedere in qualche maniera, non poteva solo guardarlo, doveva mettergli le mani addosso, curarlo, provare a rianimarlo, non era una cosa semplice. Con la famiglia immagino vicino, non è esatto. No, noi al momento in cui mettiamo le mani sul paziente per una rianimazione allontaniamo tutti, anche perché poi defibrillando c'è il rischio che se qualcuno è proprio nei paraggi si becca la scarica, quindi noi compresi. E quindi al momento in cui massaggiamo e usiamo il defibrillatore non ci deve essere nessun familiare nei paraggi, familiari per un fatto di libertà di azione e per un fatto anche di rispetto nei confronti loro, perché le assicuro che il massaggio cardiaco è impegnativo per chi lo fa, è impegnativo per chi lo riceve, perché spesso e volentieri si inclinano delle costole, perché dobbiamo andare abbastanza sul pesante per far sì che il cuore riceva certi input. Non è una passeggiata, chiaro, sì. No, indubbiamente non è una passeggiata. E dopo questa morte constatata, anche ovviamente con l'arrivo del medico, e subentra anche la funzione sociale, quella nei confronti dei familiari, perché pur non essendo aiutare a elaborare famiglia, il momento, certo, sì. Istintivamente cerchiamo di dare del supporto con l'abbraccio, con la pacca sulle spalle, con è un servizio intorno. Diciamo che ha più valore fatto da un estraneo che da una persona che si conosce, da cui è scontato. Sicuramente sì. E questo è stato il primo impatto. Poi altre vicende. Altre esperienze sono quelle di, io capisco tutti, ma di un abuso che viene fatto da parte dell'utenza, senza colpevolizzare nessuno, ma dell'uso del 118, delle ambulanze. Per esperienze concrete, toccate con mano, quasi quotidiane, io non è che faccio servizio tutti i giorni, ovviamente, ma diciamo almeno tutte le volte nella settimana, una o due volte. Ma quotidianamente facciamo dei turni di 6 ore, 8-14, 14-20, quando poi c'è abbondanza di personale, diamo la disponibilità anche per turni dalle 20 alle 24 e dalle 24 alle 8. Il problema a volte è quello inverso, delle persone che non hanno una reale necessità. Io questo contributo lo vorrei portare a chi ascolta, che poi ciascuno di noi il proprio malessere, il proprio malanno lo vive in modo personale. C'è chi è ipocondriaco, c'è chi ha un dolore lancinante, ma le assicuro che c'è un grandissimo abuso per chiamare il 118. Perché la gente ancora è convinta che se ha un ingresso con l'ambulanza al pronto soccorso viene trattata prima, e questo non è vero, perché in base al codice di attivazione, se uno ha un codice verde staziona al pronto soccorso le sue ore come se fosse in attesa fuori del pronto soccorso. E questo è giusto dirlo, perché a volte... Certo. In secondo luogo, forse molti lo fanno anche forse per qualche eccesso non tutti ovviamente, di qualche medico di base, che per motivi, mi viene detto, questo non me lo sogno, io il medico di base lo chiamo ma non viene, oppure mi ha detto il medico di base di chiamar voi. Però è una realtà, il medico di base è così semplice, mica così scontato che venga a casa, No, anche se anzi, insomma, non sì, ma... c'è il famoso giuramento di Ippocrate, sì, no? Che dovrebbe far sì che... Ma fai una telefonata, così. Ma... Non è così. E quindi io, guardi, questo l'ho constatato anche con l'esperienza purtroppo negativa del Covid. Nel periodo top del Covid noi praticamente non uscivamo quasi mai. Non avevamo nelle 6 ore... Se proprio era una giornatuccia ci chiamavano una volta, cosa che mediamente in periodi normali, come quello di adesso che stiamo tornando a una semi-normalità, cioè il cane comincia a scalpitare, c'è Chester che abbaia e usciamo 3, 4, 5 volte. Quindi nel periodo del Covid la gente era impaurita e non abusava, cioè chi chiamava realmente era perché aveva necessità. Ma nel periodo non Covid ci potremmo scrivere un libro su chiamate che non hanno nessun senso. Ecco, come vi comportate? Andate a casa di qualcuno e capite? Noi la prassi è questa: l'utente chiama il 118 e in base a quello che viene riferito al 118, a 118 c'è un personale ovviamente preparato in tal senso e formato in tal senso, ci attivano, o noi o insomma, le varie associazioni di volontariato attivano chi è in quel momento abbastanza vicino alla zona e attribuiscono un codice in base alla gravità che viene attribuita da quello che viene riferito dall'altra parte del filo, e può essere ovviamente verde, giallo o rosso. Noi in base alla chiamata partiamo con il verde, partiamo. Certo, però sfidandosi sirene. Della persona, io chiamo, dico esatto, sto per morire, mi sento male, poi in realtà ho il mal di pancia, dipende. Ma noi abbiamo avuto dei casi in cui ci è stato attivato, ma non ovviamente per cattiva scelta dell'operatore del 118, perché l'utente ha descritto una situazione catastrofica, cosa che poi al momento in cui siamo arrivati fortunatamente non era. E anche questo perché in alcuni casi è stata attivata anche l'automedica o con il medico. Arriviamo sul posto e se va bene un codice giallo anziché rosso, a discapito però in quel momento di chi realmente può avere un codice rosso che rimane indietro. Quindi l'esempio più clamoroso, che va a casa di qualcuno, si accorge non c'aveva niente, che faccia fa? Dobbiamo far buon viso, cattivo gioco. Cioè non è che si può arrabbiare, ovviamente sminuire o quantomeno rimarcare. Invitiamo, casomai facciamo sempre presente che noi non possiamo e non dobbiamo obbligare nessuno a venire in pronto soccorso. In codici verdi diciamo sempre: vuol venire in ospedale, reputa che sia giusto, è una scelta sua. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Qual è la tipologia media dell'essere umano che chiama l'ambulanza quando non c'ha bisogno? La può definire in delle costanti? Diciamo in genere sono persone sole. Persone sole che attivano la chiamata e vanno in panico, non sanno cosa fare. Cioè. Vanno in panico. Oppure c'è un discorso di ipocondria o addirittura casi di ubriachezza, casomai vengono attivati, vedono l'ubriaco per strada che barcolla o che è accaduto. Noi abbiamo un portafoglio di utenti dediti all'alcol oramai più ipernoti, e però ovviamente il passante della strada che vede questo signore o questa signora in stato di semiabbandono fisico ci attiva, quando noi non sappiamo ovviamente il nome chi è. Quando arriviamo inquadriamo, ma per carità di Dio, è sempre un essere umano e la vita va avanti, però ovviamente capiamo qual è la tipologia di problema e quindi lo trattiamo ovviamente con un'urgenza molto relativa, perché sappiamo riconoscere quando è un problema etilico o meno. A me capita molte volte vedere persone per strada in situazioni disperate. È chiaro che uno chiama il 118, chiama, certo, diciamo, il vostro, sì, equivalente, sì, sì. Certo, però ecco, le faccio un esempio di che a me è rimasto impresso, ovviamente lungi da me da fare da scendere nei particolari, facendo riferimenti a nomi assolutamente, ma una signora una volta ci ha attivato il 118 dicendo che aveva problemi, diciamo, alla vescica, e quindi noi siamo stati dirottati, siamo arrivati, la signora ha detto, una signora ancora abbastanza giovane, che aveva fatto pipì, nel far pipì si era accorta di aver fatto due gocce di sangue. Lei capisce bene che non è proprio da pronto soccorso, ecco, questa. Direi di no, nonostante tutto è venuta a pronto soccorso, poi noi ovviamente la affidiamo ai infermieri che a loro volta poi la affidano ai medici, ma sicuramente non credo che sia stato un problema. Tra l'altro non è nemmeno un problema che uno immediatamente può fare qualcosa, penso debba fare delle analisi. Sì, capisce, insomma niente di, ma esempi come questo per casistiche diverse ce ne sono quanti ne vogliamo. Penso che faccia un po' parte anche della vostra missione alla fine avere di ruolo, è brutto dirlo perché perdete tempo rispetto a casi più disperati, ma c'è una specie di ammortizzatore emotivo di alcune ansie sociali, figuriamoci. Sicuramente. Diciamo però, che siete il supporto umano dopo aver cercato in internet o nell'enciclopedia medica. Qualcuno che confermi la paura dell'ipocondriaco di avere qualche malattia incurabile. E ovviamente la funzione sociale, che questa sicuramente è importante, anche nei confronti di chi ha a fianco il paziente, cerchiamo ovviamente di calmarlo, perché la reazione di vedere un caro, una persona cara in difficoltà più o meno grave, ovviamente scatena poi le reazioni da parte di chi sta a fianco, comprensibili. Noi quasi mezz'ora che parliamo di qualcosa che nulla avrebbe avuto a che fare con quello per cui lei ha studiato, per cui suo padre l'ha fatta studiare, quello che lei immagina, è stato anni lei occupa a fare concorsi, studiare alzato la notte, capire come si può fare, diciamo, il salto di carriera, studiare i conti, i bilanci, i finanziamenti, cioè una parte proprio preponderante, fino a 60 anni passati lei si è occupata di questo. Adesso stiamo parlando di ipocondriaci, di massaggio cardiaco, è vero, e di rianimazione. È assurdo. E mai ho pensato di fare il medico, da bambino, visto che ci sono i vari sogni, no? Di farò questo da grande, mai mi è sfuriata l'idea. Sì, ma la sua non è una vocazione clinica, è una vocazione di supporto umano, mi sembra di capire, sì, per il poco posso capire. Sì. Che alla fine era la stessa vocazione che la spingeva idealmente anche nel lavoro di bancario, di avere comprensione e pietà per quelle persone che non sapevano amministrare i loro soldi. Poi nei non limiti. Sono un buono io, non sono una persona che con l'aureola in testa. No, ma i buoni sono quelli da cui mi guardo sempre, quelli che apparentemente sono buoni. Però diciamo, ecco, a me oltretutto, oltre il cercare, come dicevo, di dare una mano per un supporto anche tecnico per la situazione che, della quale dicevo prima, dello stato in cui si trova la misericordia adesso, ma a me piace, mi sento bene, come dico io, far del bene mi fa star bene. Sì, ma questo non è buonismo, realmente è così. Se uno lo capisse, di praticità. Noi malvagi d'animo, che io mi reputo tale, sanno benissimo che le volte che si fa qualcosa per gli altri, non è che uno si sente bene perché va in paradiso o perché è altruista. No. Perché se ne ha un vantaggio indubbio. Il benessere altrui crea il nostro benessere, è una cosa matematica. Certo. È come il principio, il principio, lei sa, come bancario, che se tu restituisci sempre i soldi, in pratica hai il potere anche sui soldi degli altri. Se io chiedo soldi, certo, poi li ridò, posso avere tutti i soldi che voglio, basta che li ridò, diceva Beniamino Franklin, ma è un principio fondamentale. Se tu sei un cattivo pagatore rispetto ai soldi, sei un poveraccio. Se tu sai che una persona prudente e affidabile nel restituire i soldi, te li prestano tutti, figurati, che problema c'è, sai che li ridai. È vero. È la stessa cosa nell'aiutare gli altri. Certo. Se sei tu in maniera spassionata, senza pensare che devi essere santo, salvarti l'anima o avere l'aureola, ti occupi anche degli altri, vivi meglio, perché il benessere degli altri ci crea meno clima velenoso intorno. Sicuramente. Guardi, c'è un episodio, poi mi zitto, che mi è rimasto talmente impresso che ogni tanto mi viene in mente. Una signora che andammo a soccorrere di circa 80 anni, viveva sola, aveva avuto un intervento di tracheotomia, quindi diciamo non parlava, andava a gesti, l'abbiamo dovuta trasportare in ospedale perché era caduta, era sola. Quando siamo venuti via dal pronto soccorso, che la prassi almeno mia è quella di passare di nuovo dal lettino e dare un augurio di pronta guarigione, questa signora che non riusciva a parlare mi tirò un bacio, ma poteva essere la mia nonna di una volta, quindi mi è rimasta così impressa che mi ha fatto veramente stare. Beh, distinto era la maniera migliore che aveva per proclamare la gratitudine, manda un bacio. È vero, è stata come ricevere non so che, ma è un episodio che mi... Diciamo che nella nostra memoria recondita, alla fine, anche se non siamo più nella stagione dei baci dati così, mandare un bacio significa sempre, è la cosa più profonda che viene da dentro che uno è può vero, dichiarare un altro, mandare un bacio poi non è nemmeno offensivo, non è nemmeno no, assolutamente. Soprattutto dato da una persona molto anziana, bravo, è proprio esatto. È un dono veramente. Sì, un dono. Beh, mio caro, io scendo, la ringrazio perché sennò mi sento troppo buono a parlare queste cose e devo adesso fare qualcosa di malvagio per riabilitarmi. Sennò, per compensare. No, assolutamente. Buon viaggio, alla prossima. Grazie, arrivederci.